sembra che a Napoleone, quello autentico, dico, quello che pur essendo un filino più basso del Presidente del Consiglio in carica è riuscito comunque a pubblicare un paio di codici in più, e sembra che a Napoleone non piacesse il pollo. Lo considerava un cibo monotono. Fu per questo che il Marchese di Cussy, dotto buongustaio dell'epoca, scommise con lui che glielo avrebbe servito due volte al giorno per un anno, variando costantemente il sapore della pietanza. E anche se le cronache non sono precisissime in merito, pare che ci sia riuscito. Commenta Alberto Dente di Piraino, dalla cui opera fondamentale Il gastronomo educato, che è un libro del 1950, attingo la notizia, che quello del Bonaparte folgorante attraverso l'Europa, inseguito dal Marchese di Cussy che rimescolava nelle pentole, girava a spiedi o faceva saltare padelle sui fornelli, deve essere stato uno dei più interessanti spettacoli della prima metà del secolo XIX. Di tutta questa attività, che io sappia, c'era stata soltanto la ricetta del pollo al marengo. Ma l'immagine mi si è affacciata alla mente quando mi è capitato d'assistere sere fa a una delle trasmissioni televisive in cui, in nome della difesa del patrimonio zootecnico nazionale e dei posti di lavoro correlati, si è fatto il disperato tentativo di convincere gli italiani di come, virus dell'aviaria o no, il pollo rappresenti un alimento sicuro che soltanto uno stolto allontanerebbe oggi dalla propria tavola. Il conduttore, figura notissima nel mondo televisivo, per la circostanza non aveva badato a spese. E aveva convocato in studio, oltre al ministro incaricato, a un certo numero di esperti, ai responsabili delle organizzazioni del settore, tutta gente, ministro a parte, di sicurissima competenza, aveva convocato anche un paio di cuochi, complete di berrettone bianco, fornelli e dell'intero armamentario di cucina. E ogni tanto, dopo aver introdotto un eminente veterinario che assicurava che le possibilità che quel virus potesse passare dal volatile a chi se ne cibava erano infinitesimali, o aver avuto dal presidente della Federpolli la garanzia che le misure adottate per eliminare il contagio sarebbero state approvate da Don Ferrante in persona, ogni tanto gli chiedeva ai cuochi: «E voi? Che cosa avete preparato di bello?» «Pollo al Madeira, illustrissimo», gli rispondevano i due metri all'unisono, e mentre le telecamere zoomavano sulle loro creazioni. E poi pollo al curry, involtini di pollo, pollo ripieno, pollo in salsa rosa, eccetera, eccetera, eccetera. «Che profumino», commentava estasiato il presentatore, inalando vistosamente con le froge aperte, e poi ripassava la parola al ministro. Ecco. Io non so quanti spettatori siano stati convinti dall'esibizione a rimettere in tavola il pollo. Le dichiarazioni degli esperti erano ragionevoli, anche se un po' troppo ottimistiche per uno spirito sospettoso. Il ministro perorava la causa con insolita sobrietà. I pezzi grossi erano unanimi, per una volta tanto concordi, nel lodare se stessi e il proprio operato. Ma ci vuole altro, naturalmente, per calmare le apprensioni di tutto un paese. E il pubblico televisivo, e non televisivo, che da mesi sente i media discettare di epidemie e pandemie, sa che il contagio, nonostante tutte le precauzioni, dall'Estremo Oriente è riuscito ad arrivare in Sicilia. Non ignora che in itinere il virus ha fatto comunque un certo numero di vittime umane, magari poche sul piano statistico, ma contro la paura la statistica ha poco corso. E ha capito benissimo, perché notoriamente qui nessuno è scemo, che allo stato delle conoscenze di garanzie atte ad escludere qualche micidiale mutazione non ne può proprio dare nessuno. E poi, insomma, su un piano più modesto, quella di lavarsi frequentemente le mani è un'ottima abitudine, a prescindere dalle emergenze sanitarie ed epidemiologiche, ma se uno si sente raccomandare di ricorrere all'acqua e sapone ogni volta che gli capita di toccare un uovo, beh, è normale che verso le uova cominci a covare un minimo di diffidenza, insomma. In questa situazione, naturalmente, tutto fa brodo. Il ricorso alle tecniche del Marchese di Cussy per spiegare che l'alimento contestato per sua natura non solo è estremamente versatile, ma anche un ottimo profumo, può servire certamente a qualcosa, ma io non lo considererei un argomento di grandissimo potere suasorio. Il pollo nell'uso alimentare corrente non è la base di preparazioni raffinate, è un vecchio amico nel trantran quotidiano della cucina. Quando ci si sente traditi dai vecchi amici, credetemi, la reazione di ripulsa è sempre radicale. Personalmente non ho difficoltà a confessare che, per quanto abbastanza ghiotto di pollame, non sono felicissimo da un po' quando me lo trovo davanti, e non perché disponga di particolari elementi che mi confermino la pericolosità del consumo. So benissimo che potrebbe trattarsi dell'ennesima bufala della stampa, semplicemente di un caso di cattiva informazione, ma in questo mondo ormai, se un fatto è di natura puramente mediatica, resta comunque un fatto. Non ce ne si può sbarazzare addebitandone le conseguenze all'ingenuità di un pubblico che non ha capito bene il messaggio e se ne è lasciato impressionare. Se la notizia è stata data in modo scorretto, è stata data in modo scorretto e bisognava pensarci prima. Adesso, una volta scattato il cortocircuito allarmismo paura, c'è ben poco da fare. Io temo che solo il tempo, quel grande epidemiologo, potrà riportare i gallinacei sulle mense delle grandi masse. Quella di riuscire a invertire il processo spiegando alla gente che non ha capito come sempre un tubo e di non fare per piacere tante storie è un'altra scommessa che nemmeno il vero Napoleone, per non dire delle sue imitazioni più alte di oggi, avrebbe potuto vincere.